loro non hanno ordine, non hanno regole. A me in tutte le cose mi piacciono le regole. Io sono compito di te. Mi piace che uno passi il microfono, che faccio entrare l'altro che brecca. Io, anche quando faccio i DX, che sono con una rotta che c'è Massimiliano, per dire così, io rilascio il microfono anche a loro. Invece sono persone che si prendono il microfono, si pone a vomitare e di te se ne dimenticano. Ah, ma quello è un classico. Troppo bello, è troppo bello. Poi gente che si intromette e quando ancora non hai finito il discorso che stai facendo, come stasera. Sì, sì, è vero. Ce n'è uno in particolare che fa queste cose. Cappa. Quella. Ah? Quello del più forte. Ma cosa dice il più forte? Quella è la legge di Lugasino. Infatti, perché già non ti danno modo di terminare la frase, no? Perché sembra il ditto più veloce di Sassari. Chi è che schiaccia prima la portante, guarda, sembra che si porti a casa un premio. Oh, sarei che gira di più un pomello, Cappa, meno male io pomelli già non ne ho qui. L'unica cosa che ho di pomello mi accendo e spengo. Fatto. Vabbè, tutti mi sono buoni, mi hanno tu. Come si comprate le altre cose, si può comprare anche quello, ma non me ne ha fatti nulla. Ma no, degli sciminori, no, pure da 1004 non posso comprare. Ma non me ne frega niente. Non mi piace. Cappa. Ma lo sono così, fino ad arrivare la sesta, la quinta, su che si rolla. Esagerate, ma sono mai piaciuto, è un tantino di più, vabbè. Queste qui sono battute a prete, a parte che lì se fai un piccolo sbaglio, queste sono battute a prete, non basate a prete, Mario. Prova a indovinare. Voglio sapere in generale, Mario. Mario. Non ti preoccupare che da parte mia non è patata fredda. Io ti ho capito, al mille per mille ti ho capito cosa vuoi dire tu. A me queste cose piacciono, quindi non te lo posso dire. No, a me, a parte che mi piace vederle, non usarle. Io ce l'ho e mi vede mai attaccato a dire prova con questo, prova con quello. Io ho anche gli apparecchi che se voglio qualche watt in più me lo dà, non era quello lì il problema, capito? Però ce l'ho da 1000 watt e me lo tengo. Ma Mario, mica verrà da impagli a San Gira, io sto parlando in generale, io sto parlando di me, non degli altri, sto dicendo che a me non mi va di avere grosse apparecchiature lineari e cose del genere. Poi tu puoi fare quello che vuoi, non è che io ti stia impedendo di tenerlo. No, per carità, mica ho detto quello io. Ho detto solamente che era una battuta fredda perché io la verità ce l'ho, ma... E poi tu già lo sai, non è che ce l'ho da ieri o da avanti ieri, no, ve la giuri a 20 anni. Ah, lo so. BV 2001. Cappa. E non ricordo più a nessuno. Ma non è la lusantela, ognuno fa ciò che vuole. A me mi piacciono più i transistorizzati, la verità, di quelli valvolari. Come quello che c'è transistorizzato mi piace di più. I valvolari non li supporto già assai, perché basta un piccolo errore, esplode tutto, boom. Ma il giorno che me lo compro io uno da 10 watt, guai, non farei pa' più nessuno in ordine. Oh, Gianni, io c'ho sempre anche quello famoso tuo, a te lo ricordi, quello che avevi dato una persona, quelle, cioè non è che l'avevi dato, tu l'hai dato a lui, però l'aveva dato a me, capito? UX2. Cappa. dettagli, io come faccio a non ricordarlo? Quello è stato uno degli apparecchi che gli piaceva un bel, quelle, infatti un po' così l'ho dato, dai. Stefano, ma te dai che lo vuole una persona, ma non ti posso dire chi è, ma io me l'avevo immaginato che era per te. Gamba, gamba. Sono anche quello. Sì, qui c'è tutto, cioè, di tutto e di più adesso. Di più. E adesso c'è anche il 440, che è quello che sto modulando ora. Vabbè, là, prendo il furgone nuovo e passo lì, là. No, adesso c'è anche un altro tipo di accordatore, ma ce n'è 80 ora, sembra così, ma potrei aprire anche una bancarella. No, perché tu devi sapere che se il peso è troppo, noi abbiamo comprato il furgone che ha gli ammortizzatori ad aria, che c'ha praticamente la valvolina. Tu quando carichi troppo, metti l'aria dentro, c'è il manometro, tutto quanto, metti l'aria dentro, si alza e poi te lo porta lì ferro col carico. Pensa, bella, questo lì è bello, mi è interessante, però non fa per me, perché l'ultima volta che sono andato in un posto a caricare, io non sapevo niente, ma lui, è bello che non mi hanno chiesto quanti quintali porta, mi ha detto quante pedane ci stanno in questo cassone, e io così gli ho risposto, gli ho detto 7 pedane. E la maneggiare che ha 17 quintali di roba, è nato un villi. Non è che ce ne stanno 7, ma non è prolungata. No, il cassone è quello del villi che c'ho io, è 4 metri per 1,80. E che sono prolungata. Pagata. Io nel daily, quando ce l'avevo io ce l'avevo 35-10 e ne caricavo pedane 4 intere e poi le altre smantellate, però ti dico una cosa, ha la proporzione con questo che ho adesso, che non ha le gemellari, invece l'altro ce le aveva. Sentivo più il peso nell'altro furgone che in questo che c'è l'ammortizzatore di all'aria, cioè in questo qui non si sente proprio niente un peso. Sì, non lo so come, vabbè che tu carichi abbastanza moderato, dai, non sei come me, io sono sicuro, guarda che se mi dovessero fermare sono sempre sovraccarico, perché noi carichiamo troppo, ma non troppo così, no, troppo me. Io quando faccio i viaggi per l'ingegnere ci carico 2 metri cubi di sabbia, 2 metri cubi di sabbia sono 36 quintali, non è poco. Capito? Noi carichiamo un bel. Infatti la volta che mi hanno caricato quei 60 quintali si sono snervate le palestre e sulle gomme gli ho fatto tipo slicchi, tipo la macchina da corsa, perché il ferro si è mangiato tutto il battistrada. È vero, sono arrivato alla tela e mi sono fermato a tirare scendere un fumo, un fiago di bruciato, e mi sono fermato lì alla tavolina prima del cementificio, e ho caricato altri 3 furgoni senza quello che mi è rimasto sopra me. Figurati. Sicuramente sai che cos'è quello, è il bullone, è il bullone del parafango. Io lo so perché l'ho già fatto, Praticamente sporge un po' dal parafango all'interno, quindi tu come c'è il carico, tocca quello lì e ti fa, non mi ha bucato una, mi ha fatto scoppiare una gomma, una cosa del genere, diciamo che vuole gemellare, già una sfregava con l'altra perché era un bel carico, poi ha toccato quell'affare, boom, allora sai cosa ho fatto, gli ho invertiti, ho messo il dado, a parte sopra e il bullone, ma così lo so capito. E così è successo a me, però ti ripeto, un giorno c'avevo 60 quintali, cosa che se ne fermano arrestano a me il camion e a chi l'ha caricato pure, perché uno dice vabbè sente pedale, ma è come che io ho piglio il diritto, dice ci sono da portare il panettone, piglio 27 pedale, ma i panettoni sono leggeri. Ma quando vedete una pedana di riso, una pedana di che? Gli spagnoli, i portoghesi, qualche volta ho sentito anche i francesi, però diciamo che con la 5 sentivo un po' tutti, con questa qui non sento nessuno, perché anche tu sentivi quello lì con l'organo.